Dario Ricci. Ascoltatori italiani, buonasera. In diretta via satellite dal Messico, la nazionale italiana ha conquistato il diritto di disputare allo stadio Azteca la semifinale per il campionato del mondo. È già schierata al centro del campo, udite l'inno nazionale tedesco. Tra poco avrà inizio Italia-Germania. Insegna, ha saltato Schutz, passaggio Rivera, rete Rivera, ancora 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono. Guardate Rivera, la finta che sbilancia Maier, 4-3 per l'Italia, ha segnato Rivera. E siamo al sesto minuto del secondo tempo supplementare. 4-3 per l'Italia. Giugno 1950, stadio Azteca di Città del Messico, va in scena, va in campo la partita del secolo. Sì, ma oggi a 50 anni di distanza definire quell'Italia-Germania 4-3, ed è bello anche raccontarla, già svelare com'è finita, perché poi già il risultato è parte di quella leggenda, ovviamente. Ebbene, oggi parlare di Italia-Germania 4-3 e definirla la partita del secolo, forse anche un po' ridurla, perché quella partita è diventata prima festa di popolo, poi mito, leggenda e poi fotografia proprio di un paese, come è stato, com'è e forse anche come sarà. Uno stato dell'anima, direi, quella partita di cui parliamo oggi a Olimpia. Sto sfogliando tra le mani, tengo un libretto prezioso e arguto dedicato proprio a quella sfida leggendaria 4-3, edito da Edizioni in Contropiede, e oggi ho il piacere di ospitare i due autori. Roberto Brambilla, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport. Ciao Dario, ciao a tutti. E Alberto Facchinetti, benvenuto a Olimpia, la città dello sport, Alberto. Buonasera. E allora, insomma, diciamolo subito, giocate un po' a fare il buono e il cattivo in questo libretto, perché da quello che so, Roberto Brambilla, grande esperto conoscitore del calcio tedesco, Alberto Facchinetti, più ancorato al nostro calcio, insomma, Alberto, hai lasciato a Roberto il lavoro sporco, raccontare questa partita dal profilo degli sconfitti. Sì, diciamo che scrivevamo le parti dei capitoli e poi ce li passavamo in modo da inserire il proprio punto di vista in ogni pagina. Però dici bene quando definisci Roberto uno dei germanisti sportivi più importanti in Italia, quindi è soprattutto grazie a lui che in questo libro vengono raccontate storie tedesche che prima secondo me non erano ancora state raccontate. Eh sì, è vero Roberto, perché tutto sommato ci siamo beati per 50 anni dell'abbraccio tra Rivera e Riva, del gol del Golden Boy, delle discussioni sulla staffetta Mazzola-Rivera. Più raramente siamo andati a vedere nell'altra metà campo, no? Quella dei nostri rivali, che poi col nostro calcio erano allora, come lo sono ancora oggi, strettamente connessi, no? Basti ricordare il nome di chi ci fece quello scherzetto al secondo di recupero dei tempi regolamentari, no? Ma esatto, e tra l'altro voi avete detto il lavoro sporco, nel mio caso non era il lavoro sporco, ma semplicemente per me era molto più facile, perché su Italia-Germania e sull'Italia si è scritto praticamente di tutto, invece su quella parte tedesca si è praticamente persa, ed è stato anche un divertimento per me, perché se può consolare gli ascoltatori, non esiste un singolo libro monografico in tedesco su quella partita. Chissà com'è. Come significato che le sconfitte forse è meglio non ricordarle, nel senso, nel loro caso non esiste un libro, esistono vari libri di memorie da cui io ho tratto, ma sono di vari calciatori che raccontano quel momento. Facevamo riferimento, Roberto, a quel Karl-Heinz Schnellinger, che allora vestiva la maglia rossonera e quindi compagno di squadra di Rivera e di tutti i milanisti nella nostra nazionale, che quasi come sappiamo bene, ormai nell'avvicinarsi agli spogliatoi, perché ormai insomma la partita la dava quasi per finita, si è ritrovato a scriverne la parte forse più importante della leggenda, perché senza il suo gol non ci sarebbero stati i supplementari, no? No, tra l'altro lui ha raccontato che quel gol è stato paradossalmente la sua dannazione, nel senso che lui è che ha vinto tantissimo perché era una delle colonne del Milan di Rocco e degli altri Milan, ma soprattutto il Milan di Nero Rocco. Lui dice: io ho fatto un solo gol in nazionale, in una stagione mondiale ne ho giocato anche un altro con il 66 e c'ero anche quando loro avevano perso con gli inglesi, però dice tutti si ricordano solo di questo gol, e per lui dice è una dannazione perché va in secondo piano tutto il resto, io sono quello di quel gol. Tra l'altro Schnellinger, che è protagonista della prefazione scritta da un altro nostro grande amico e grande amico di Olimpia e anche grande giornalista soprattutto per Avvenire, Massimiliano Castellani. Alberto Facchinetti, nella copertina del vostro libro c'è l'abbraccio tra Riva e Rivera subito dopo il gol del 4-3. Ecco, qualche mese prima c'erano stati due eventi importanti, no? Un pallone d'oro per il Golden Boy, lo scudetto del Cagliari e una partita che in qualche modo univa e divideva questi due campioni, no? Faccio riferimento, Alberto, a un Milan-Cagliari. Sì, intanto Riva arrivava al Messico dopo lo scudetto storico vinto con il Cagliari e quindi arrivava anche abbastanza stressato dal punto di vista psicofisico. Qualche mese prima c'era stata una partita Milan-Cagliari in cui veniva premiato con il pallone d'oro Rivera e in campo anche Riva che lo va a salutare, Riva che si era classificato al secondo posto e gli dice in maniera scherzosa l'avrei meritato io. Questo comunque dimostra come l'Italia avesse due grandi fuoriclasse in quella spedizione messicana. Purtroppo nessuno dei due riuscì a dare il massimo. Riva, perché appunto, come abbiamo detto, non era in splendida forma e giocò bene ma non benissimo. Ricordo che Riva doveva essere l'alternativa europea a Pelé. In quei mesi tutti i giornali sportivi e non italiani e internazionali avevano dedicato copertine a Gigi Riva. Rivera, anche lui non fu, diciamo, protagonista, non per colpa sua, ma per questo impegno part-time. Che, sì, la famosa staffetta, Mazzola e Rivera, insomma, no? Ma senti, ma chiaramente nel libro entrate nel merito anche della staffetta, che poi però rimane sullo sfondo in realtà, perché poi deflagrerà ancora di più nella finale con quei tragicomici 6 minuti concessi a Rivera contro nella sfida poi persa col Brasile per 4-1. Però quello che mi ha colpito è che ricostruisci in particolare tu, Alberto, anche il fatto che dopo quel leggendario 4-3, il gol di Rivera, dall'ambiente azzurro, dallo stesso Valcareggi, emersero delle perplessità sulla prestazione dello stesso Rivera, no? Sì, infatti entrò nel secondo tempo regolamentare e, come dire, non brillò in quella partita. Quando entrò l'Italia stava difendendo l'1-0 di Boninsegna, quindi probabilmente non era neanche una partita, un secondo tempo adatto a Rivera. Poi sbagliò sul 3-3 quando si mise sul palo mettendosi in una posizione non perfetta. L'Italia subì il 3-3, ricordiamo come Albertosi disse le peggior cose a Rivera, e poi però finalmente questo gol splendido su passaggio di un incredibile Boninsegna, 4-3, la partita appunto diventa in quel momento probabilmente la partita del secolo e un'emozione talmente forte che al 120esimo un giornalista scrupoloso, forse uno dei migliori di questa generazione, Giorgio Lago, va a chiedere a Rivera conferma se il gol lo avesse fatto di sinistro, e Rivera confermò: sì, l'ho fatto di sinistro. Ora tutti noi sappiamo che in realtà quel gol, visto che l'abbiamo rivisto decine e decine di volte, lo ha realizzato di destro. Però anche questo è un episodio che ci fa vedere come quel gol poi divenne talmente tante altre cose che già dall'istante subito dopo in cui venne realizzato si perse un po' il confine della cosa. Eh sì, il confine tra fisica e metafisica, direi così, tra calcio e metafisica. Allora, prendiamoci adesso, proprio adesso, su quel gol decisivo del 4-3 di Gianni Rivera, qualche istante di pausa, poi torniamo ancora una volta qui a Olimpia, a quel pomeriggio messicano del 17 giugno del 1970 con Roberto Brambilla e Alberto Facchinetti. Ascolta, è il momento di riaccendere i motori. Con Iveco Daily ripartire è più facile. Bastano poche semplici mosse. Scegli subito il daily più adatto a te, lo ritiri e inizi a pagarlo tra 6 mesi. Nuovo daily. Cambia prospettiva al tuo business e riparti con Iveco. Richiedi un preventivo alla tua concessionaria o chiama l'800-800-288 o visita il sito iveco.it. Offerta valida fino al 31 luglio. Fogli informativi e condizioni presso le concessionarie aderenti e salvo approvazione Iveco Capital. Iveco, l'Italia che vince. Digli di comprarsi un daily. Olimpia di Dario Ricci. La Pacchetti a Boninsegna, controllato da Schulz, Boninsegna scappa a Schulz, entra in questo momento in aria, traversone, rete, ha segnato il gol d'Italia! E noi sappiamo dirvi con chi, sentite ascoltatori, ma esattamente con Rivera. Rivera ha segnato ora per l'Italia, emozioni a non finire. Sesto minuto, l'Italia è passata in vantaggio con Rivera, 4-3 per l'Italia. Secondo tempo supplementare è scaduto, pallone da Boninsegna indietro Domenghini, Yamasaki controlla la sfera, avanza ancora Domenghini tallonato da Elbe, eccolo una posizione della destra, scendere velocissimo verso la linea di fondo, effetto un traversone, attende Boninsegna che però non raggiunge la palla, la raggiunge invece Schulz, subito lancia e in questo momento l'arbitro decreta la finale dell'incontro, è finito l'incontro, l'Italia disputerà con il Brasile la finalissima del Coppa Rimè 1970. È stato un trionfo per i nostri azzurri, sono stati bravissimi, li stringiamo anche noi, tutti quanti noi della radio, al nostro cuore, in quanto ci hanno dato oggi una prova veramente superba, magnifica. La partita del secolo, Italia-Germania 4-3, questo oggi il momento epico della storia del calcio, ma direi della storia della nostra vita, perché poi è entrata nella vita anche di chi quella partita, come ad esempio il sottoscritto, non l'ha vista dal vivo, ancora dovevo nascere, così come giovanissimi ma appassionati sono i due ospiti di oggi di Olimpia, che proprio a quella sfida hanno dedicato il loro libro 4-3, pubblicato da Edizioni in Contropiedi e scritto da Alberto Facchinetti. Ben ritrovato a Olimpia, Alberto. Ciao a tutti ragazzi. E da Roberto Brambilla. Ciao a tutti ragazzi, ciao Dario. Allora Roberto, abbiamo rivissuto la cronaca e già alcuni momenti decisivi di quella sfida epica, ma ti chiedo, l'Italia, come sappiamo, si avvicina, entra in quel 1970 sulla scia della strage di Piazza Fontana e con sotto braccio il pallone d'oro vinto da Gianni Rivera, no? Due momenti dal significato totalmente opposto, ma in qualche modo iconici di un paese che mette il piede sull'abisso di quelli che poi saranno gli anni di piombo. Ecco, la Germania come paese sfregiata già dal muro di Berlino, come era arrivata a quel mondiale? La Bundesliga ormai ha quasi 10 anni e sta arrivando verso qualche anno dopo la Germania vincerà per la prima volta la Coppa dei Campioni, dunque si sta arrivando verso un'ascesa alla Bundesliga. Invece dal punto di vista sociale la Germania un mese prima di quella partita, con un'azione militare che è quella di liberare Andreas Bader, che era un criminale che poi si politicizza, era un terrorista, viene liberato dal dove era rinchiuso e nasce la Bader Meinhof, che è la versione versione, la Rotterdamifaktion, che è la versione, è bruttissimo da germanista, mi sto sotterrando, ma in verità sarebbe la versione tedesca delle Brigate Rosse. La Germania è in un paese di pienissimo fermento sociale. Due anni prima Rode Dutschke, Rudi il Rosso, ha infiammato tutta la platea degli studenti tedeschi che cominciano il loro 68. Calcisticamente è appunto quell'anno, se in Italia è l'anno del Cagliari, in Germania è l'anno del Borussia Mönchengladbach, che un mese prima ha vinto il suo primo titolo tedesco. Va anche detto, Roberto, che quella Germania allora come oggi era già il cuore pulsante economico dell'Europa, e tant'è che soprattutto per noi italiani era meta di emigrazione proveniente soprattutto dal nostro centro-sud, no? Sì, no, l'emigrazione è appunto, i gastarbeiter, i lavoratori ospiti davvero sono stati dalla seconda metà degli anni 50 all'inizio degli anni 60. Infatti io poi l'ho anche raccontato, perché ci sono stato in quel posto, me l'hanno raccontato persone che c'erano, ma che ovviamente adesso hanno 50 anni di più, e praticamente che Wolfsburg, la sede della Volkswagen, era uno dei posti in cui c'erano più italiani. Infatti quando poi gli italiani vincono, i gastarbeiter, che normalmente non è che vivono in una bella situazione, nel senso che i tedeschi gli davano da lavorare, ma non è che fosse, non possiamo parlare né di inclusione né di integrazione. Quel momento fu davvero un momento di riscossa per molti, anche perché è una partita epica ed è la prima partita dentro o fuori tra Italia e Germania, perché prima si erano incontrate, per esempio nel 62, ma si erano incontrate e non era una partita dentro o fuori. C'è anche un modo di dire, no, che tu riscrivi nel libro, io non so dirlo in tedesco, ma che tira in ballo spaghetti e kartoffeln, no? Esatto, che praticamente, detto in sotto in italiano, praticamente dice che gli spaghetti hanno un miglior sapore rispetto alle patate, che sono ovviamente l'alimento che viene da un italiano, soprattutto da quel periodo, viene assolutamente associato ai tedeschi. Tra l'altro c'è Sepp Maier, raccontate nel libro, Sepp Maier, il grande portiere di quella Germania, che sente talmente sulla pelle il dolore quasi fisico per quella sconfitta, che poco dopo il fischio finale dice: beh, io da adesso in poi non mangerò più pizza e spaghetti. Per fortuna ci ha ripensato, no? Esatto, vedendo la sua stazza credo anche che gli piacciono parecchio, perché adesso, nonostante la sua età, diciamo che rispetto a quando giocava, adesso è molto più in carne, diciamo. Alberto Facchinetti, ecco, un'Italia, quella squadra che seppe esaltarsi in campo, ma che poi, come già abbiamo accennato, era squassata da polemiche, la marcia d'avvicinamento era stata assolutamente controversa, e poi c'era questa figura, questo personaggio, Walter Mandelli, che in qualche modo era il deus ex machina e il grande manovratore, no, anche della gestione paratecnica di quella squadra di campioni. Sì, e l'allenatore era ovviamente Valcareggi. C'era questa figura più o meno ingombrante di Mandelli, ed era, per capirci, l'uomo con cui Rivera aveva litigato, o meglio, aveva espresso il suo malumore con la stampa. Adesso è difficile, diciamo, capire oggi se Mandelli ispirasse in qualche modo anche la formazione, probabilmente no, non era neanche in grado di farlo, anche se in realtà da giovane era stato anche un discreto calciatore. C'è da dire che anche all'epoca c'era comunque un'influenza anche della stampa, parlo dei Brera, dei Direlli, dei Palumbo, grandissimi giornalisti che avevano anche un'influenza nelle scelte tecniche. Ecco, ma insomma, poteva arrivare questa influenza quasi a suggerire o addirittura a imporre la formazione a un Valcareggi che sicuramente aveva grandissime qualità tecniche, ma che magari era, diciamo, un pochino più remissivo dal punto di vista caratteriale. Beh, non sarebbe stata la prima volta nella storia italiana di mondiali, perché per esempio nel 62 si sa con certezza che qualche giornalista dettò la formazione, per esempio con il Cile nella famosa battaglia di Santiago. Qui non abbiamo, diciamo, delle conferme, però comunque una stampa forte che poteva in qualche modo, se non suggerire, influenzare. Valcareggi è stato non solo un ottimo allenatore, è stato un grandissimo CT, perché ha vinto l'Europeo nel 68 e anche compiendo delle scelte molto importanti, tipo quella nella finale bis con la Jugoslavia di stravolgere la fazione dopo pochi giorni dopo il primo pareggio, e sostanzialmente quello fu il segreto della vittoria. Nel 70 portò questa squadra in finale ad un passo dal titolo. Ovviamente la sconfitta col Brasile era difficilmente evitabile, però la gestione dei due campioni Mazzola e Rivera non fu eccellente. E certo, è rimasta quella un po' nella storia. Ragazzi, Alberto Facchinetti, Roberto Brambilla, siamo veramente alle ultime battute di questo viaggio nella memoria e nel mito. Ebbene, siamo riusciti a parlare di Italia-Germania 4-3 senza parlare, pensate, di Franz Beckenbauer, di Uwe Seeler, di Gerd Müller, delle storie di Ricky Albertosi. Le trovate tutte in 4-3, il libro pubblicato da Roberto Brambilla e Alberto Facchinetti per Edizioni in Contropiede. Ma vi chiedo un ultimo flash: qual è secondo voi l'eredità che ci lascia quella sfida? Roberto Brambilla. Una partita che sembrava sostanzialmente finita, che però poi diventa una delle più belle partite di tutti, è la più bella partita di tutti i tempi. Il semplice fatto che al 90esimo era una partita brutta e peraltro anche molto noiosa. Questo insegna che il calcio è la ragione per cui tanta gente lo guarda, è perché non vince sempre il migliore, ma soprattutto perché in un momento può cambiare tutto, e non si sta trattando di una rimonta, qua cambia tutto. Un gol ha cambiato uno scenario che sembrava non destinato a cambiare. Quello che succede spesso anche nelle nostre vite. Alberto Facchinetti. Io riassumerei con una targa che c'è oggi allo Stadio Azteca, che omaggia quella partita come la partita del secolo, 17 giugno 1970. E allora riviviamola nelle pagine di 4-3. E grazie a Roberto Brambilla e Alberto Facchinetti per essere stati oggi ospiti di Olimpia, la città dello sport.